Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Saviano ha torto marcio, intanto perché deve imparare a misurare le parole, perché se dice che nelle liste c'è Gomorra deve fare nomi e cognomi. Per quello che mi riguarda, il tempo delle allusioni e delle parole a ruota libera è finito. Nomi, cognomi e fatti. Punto. Se non destruire solo a guardare. Allora, il tempo di queste liturgie sulla camorra deve finire. Nomi e cognomi. Lei è molto generoso con l'onorevole Rosaria Bindi, che ha violato più di una regola. Ha votato il suo partito. Lasci perdere il regolamento. Quando si riunisce la commissione antimafia, bisogna riunire. Non è che ti svegli la mattina e a 24 ore alle elezioni ti inventi la categoria degli impresentabili. Chi sono gli impresentabili? Per me impresentabile è l'onorevole Rosaria Bindi. Lei insomma non aveva impresentabili nel. Non so se è chiaro. Da tutti i punti di vista, impresentabile, non so se è chiaro. È tornato Vincenzo De Luca, Rosi Bindi, una impresentabile da tutti i punti di vista. Beh, non male questa, alla Berlusconi questo giudizio su Rosi Bindi da parte del presidente della regione Campania ieri da Lilli Gruber a 8:30. Ce l'aveva con tutti, ce l'aveva con tutti. Saviano, Rosi Bindi, anzi come la chiama lui? Rosaria Bindi, impresentabile sotto tutti i punti di vista. Vabbè, Vincenzo De Luca, uno che combatte sempre. Come combatte Marino? Signori, siamo nel giorno 7 dell'era della resistenza mariniana e ormai è sempre più sicuro, sempre più ufficiale. Pare che questa mattina Ignazio Marino ritiri ufficialmente le dimissioni. Alle 12, anzi alle 11, è convocata la giunta. Tutto a posto, si va avanti. Marino resiste. Ha detto Orfini è un traditore. Orfini di lui dice: che vergogna, che imbarazzo, siamo agli stracci. E io da giorni ho detto: resisti Marino, per vedere l'effetto che fai. L'effetto, se si vedono gli albori, è un effetto ottimo. Ne vedremo delle bellissime, delle licenziato! No, caro Oscar, no. E lui invece dice no, resisto. È ufficiale ormai. Ignazio Marino vuole andare in consiglio comunale a chiarire tutta la questione degli scontrini E pazienza, se voi romani non avete la metropolitana che non va, ma non rompeteci le scatole se avete le buche per le strade, la monnezza che non racconta. E basta lamentarvi, che noi stiamo per godere e assistere allo spettacolo. Non disturbateci, per favore, eh? Non disturbateci, che lo spettacolo sta per cominciare. Sul più bello, eh? Non venite a scassarci le balle con queste robe di quisquiglie, di robe della città che non funziona, eh? C'è uno spettacolo che sta per andare in scena e basta, su. Allora, questo è 24 mattino, eh? Sono le 6:35 minuti, è mercoledì. E dunque, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Pavarotti che ci accompagna nella dolce mattinata, il nostro Peter Bescapè in regia, c'è anche colei che alliete e i nostri... da mezzanotte la radio diventa Paola by Night. Eccola qui. Ha appena smontato, di fatto. Ma è meraviglioso. Ho appena terminato la lunga Paola by Night ore ed eccomi da voi. Buongiorno. Eccoci, buongiorno alla nostra Paola Saluzzi. Buongiorno Superalino, buongiorno al nostro Alpino e buongiorno al nostro Lorenzo Nespoli che va in bicicletta. Arrivi in bicicletta in radio. Voi volete vedere la fortuna che avete, cioè potete andare. Già siamo 7 colpi qui. Ma sì, ma oggi piove a Milano, quindi che fortuna. Ma piove anche a Roma, ma va bene. Va bene così. Anche se piove, i ragazzi che sanno andare in bicicletta vanno anche sul pavé. Sul pavé, sul pavé. Olè. Olè. Marino. Dai, che lo spettacolo è pronto. Tu hai già il biglietto? Hai già il biglietto per il consiglio comunale più seguito del mondo? Siamo tutti presenti, vedremo che cosa accadrà. Bellissimo, bellissimo. Roma attende. A me dispiace non avere uno spettacolo del genere, non so, forse anche a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, milanese doc. Buongiorno. Buongiorno. Ti spiace non poter godere di uno spettacolo del genere a nostra Milano? E come no? Dai, ci sono i bagarini che venderanno i biglietti del consiglio comunale. I bagarini, come allo stadio. Mamma mia ragazzi, che bello spettacolo. Si fa per dire, apriamo il Parlamento, dai, che io vorrei capire adesso, insomma. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Io ho detto che per me va bene così, cioè deve resistere, Per te Luca no, non deve resistere, non è un bello spettacolo? No, non è un bello spettacolo, perché se la situazione era questa e lo sapeva da prima, non doveva dimettersi. Questo effettivamente. Punto, cioè, c'è da dire, perché si è dimesso? Allora, cioè, se doveva resistere prima. Questo ripensamento ha veramente del ridicolo, cioè, scusate. Però vuoi mettere l'effetto che fa? Sì, intanto i problemi della città invece, capito, vanno... E i problemi della città, anche tu, questi problemi della città, ma insomma, ma... Cinicone. Che cinico, che fastidio, no? Paola Saluzzi, c'è qualche problema in città? Devi tirar fuori adesso qualche problema proprio sul più bello dello spettacolo? No, c'è sicuramente il problema politico da vedere, da capire, comprendere perché si sia arrivati e se si arriverà a questa decisione da parte del sindaco. Poi senz'altro c'è una città che ieri, inaugurando l'apertura di un ponte tra, a voi non dice nulla, insomma, sì, ma tra Borgata Fidene e Villa Spada, stiamo peraltro alle spalle, su via Salaria, proprio alle spalle della nostra sede di Sky, lui ha detto ma Roma va avanti, i cantieri vanno avanti, i lavori devono continuare e quindi continua a lavorare come se nulla, tra virgolette, se nulla fosse. Adesso bisogna capire però politicamente che cosa meriti questa città, che cosa ci dobbiamo aspettare, no? Sicuramente merita una conduzione, intanto merita un bello spettacolo che vedremo tra poco. Un buon lavoro, Regalino, perché sì. Se no, insomma, ecco. Vabbè, Roma, che devi fare? Ricordiamocelo, è Roma. Senti qua l'orgoglio della Saluzzi, è Roma. Ci sono nata, quantomeno, non sono romana proprio con i genitori romani, ma ci sono nata, sono le 7 generazioni mi sono sempre chiesto queste sette generazioni, insomma. Ma chi diavolo sette sono? Sette colli, sette generazioni. Chi erano i romani doc, no? Non lo so. Tu, Luca Dini, sette conosci sette milanesi da sette generazioni milanesi? No, forse due. Forse diciamo. Da due generazioni? No. Vabbè, ma già. No, no, già due, ah, due milanesi conosci da sette generazioni? No, ma chi lo sa. Comunque credo che anche Crozza si sia espresso su Marino, vediamo un po', sentite Crozza ieri. Tra Renzi e Marino c'è quel bel sentimento di fiducia, un po' come quello che c'è tra Valentino Rossi e Marquez, sai. Signori miei, è lui che ha iniziato, mi ha infastidito per tutto il campionato, guardate le immagini, è lui che si è appoggiato. Forse voi non vi ricordate come l'ho tirato giù dalla sella Enrico Letta. Vabbè, effettivamente sembra un po', Luca, sembra un po' quel clima tra Valentino Rossi e Marquez. Anche se, in effetti sì. Anche se Renzi quando è venuto da noi ha detto no, io del sindaco di Roma non mi occupo. Ma come del sindaco di Roma non mi occupo? Sembrava è una quisquilia. Sembrava veramente leggermente una piccola bugia, ecco, diciamo così. Comunque, insomma, Marino deve dimettersi per Luca Dini, insomma. Ricordati di chiedermi di Luca, no? Di De Luca. Vuoi dai il tuo giudizio su De Luca e l'impresentabile Rosaria Bindi. Devo dire che al di là del merito, proprio al di là del merito che pure c'è, basterebbe quel in tutti i sensi a rendere De Luca impresentabile. Non è un cavillo di forma, la forma è sostanza. È un paese dove il sessismo è un problema molto serio, in tutti i posti di lavoro, è una cosa indecente. No, ma lui è proprio chiaro che l'ha voluto dire, tra l'altro Lilli Gruber stava andando avanti proprio, non so se è chiaro, impresentabile. Appunto. In tutti i sensi. Come non è un comunissimo cittadino, ma è il capo di una regione importantissima e splendida, lo trovo veramente orrendo. Sì, l'avesse detta Berlusconi, effettivamente. Anzi, quando l'ha detta Berlusconi, una frase simile, non uguale, ma simile, sì, siamo andati avanti tre giorni. Questo è persino un po' peggio. Con le maglie, perché è peggio questa? Perché è del suo stesso partito, no? Perché c'era più cattiveria nel dirlo. Ah, c'era proprio cattiveria. Ma infatti mi sa che proprio siamo alla cattiveria. Insomma, che non si vogliano altro che Valentino e Marquez, che non si vogliano molto bene. Sì, però effettivamente ha voluto aggiungere questa cosa che non c'entrava nulla, è proprio impresentabile in tutti i sensi. Cioè, alludere all'aspetto fisico di una donna, cioè veramente una cosa che non si può sentire in un paese civile, basterebbe questo per metterlo fuori gioco totalmente. Tu Paoletta, che dici? L'aspetto fisico in generale, insomma, per una donna e per un uomo, questo non andrebbe mai fatto. Però, ovviamente sottolineo è un paese quello che ha detto il direttore, ma certo, questo è un paese dove no. Come una canzone, sei bello e ti tirano le pietre, sei brutto e ti tirano le pietre, e quindi se poi al bello o brutto aggiungi bella o brutta, insomma, o in generale sei donna, le pietre te le tirano con ancora maggiore vigor e con ancora maggiore gioia, quindi senz'altro era una battuta avvelenata. Sì, molto molto avvelenata. Vabbè, bocciato De Luca in tutto ciò che Valencia vale. Esatto. Ma anche voi, perché tutta l'Italia, anche coloro che non sanno nulla, io per esempio mi ci metto in mezzo, di motociclismo, di Valentino Rossi, del motomondiale, che non lo seguo, lo ammetto, insomma, non è tra le mie passioni, però negli ultimi giorni, insomma, adesso rischio di voler vedere anche l'ultima gara, anch'io a Valencia. Tutta l'Italia si è divisa, stiamo con Valentino Rossi, no, ha sbagliato, si è fatto prendere un momento di pazzia, è cascato nella trappola, no, ha fatto bene, fagliela vedere, dai, anche voi dovete dire la vostra. Luca, che dici? Ma io non lo saprei, devo dire che questo Marquez a me è sempre stato sulle balle, onestamente. Così. L'hai sempre seguito e hai questo giudizio, Marquez sta sulle balle, così. Da prima. E che t'ha fatto? Che io non conosco la vita e la storia di Marquez. Che t'ha fatto? È una cosa epidermica. Ah, così? Ho capito, ma avrà fatto qualcosa, cioè io non saprei neanche che faccia c'ha, e quindi invece tu l'hai seguito. Mi sembrava uno così inzichino, infatti è così. Perché al di là di quello che poi è successo in quel momento, sicuramente ha, cioè, che è evidente che ha giocato contro, è evidente. Una qualche provocazione, basta vedere qualche la gara, qualche tecnico, insomma, l'ha notato anche nei tempi, insomma, ha fatto un po' apposta per ostacolare. Questo è brutto a prescindere, perché la gara dovrebbe essere, cioè la strategia è importante, però insomma di solito la strategia dovrebbe servire per aiutare qualcuno, non per ostacolare. E Valentino Rossi che dovrebbe fare? Andare ovviamente a Valencia e rimontare tutti e vince. Vabbè, questa sarebbe Certo. Non è che dovrebbe fare. No, ci andrà. Ha detto che ci va. Il senso è solo uno, un unico striscione lungo tutta la pista, non so quanto sia lunga la pista di Valencia. Marquez hai rotto le palle. No. Marquez hai rotto le palle. A Valentino vale. Marquez hai rotto le balotas. No, non altro da dire. No. Parliamo solo di Valentino. È Valentino che vale. È Valentino che a Valencia ha tutto il suo mondo, che è immenso, con lui. Quindi vale Valencia. Vabbè, insomma, abbiamo deciso che Luca Dini e Paola Saluzzi stanno con Valentino Rossi. Li abbiamo messi in mezzo ai VIPs che stanno con Valentino Rossi. Allora, andiamo a sentire il traffico e poi torniamo qui. C'è ancora da parlare. Mamma mia, questa cosa della carne rossa. C'è anche questa roba da giorni. Adesso mi tormentano con la carne rossa. E pensate che i macellai già dicono che sono calate del 20% le vendite della carne rossa. Questo fa capire la gente cosa, come reagisce. Tra poco. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Lo so che non vado bene a Renzi, ma è proprio per questo che mi piace che Marina non si dimetta. Ogni casino che combinano, ogni casino che succede all'interno del PD, a noi che il PD ci ha scippato ogni futuro, siamo proprio contenti. Milan, da che ne stai con sto Marino? Che resta rutivale, sì, ma bravo, cantala lì. E che ti dico, Sandro, tu sarai contento che hanno bloccato la rivalutazione delle pensioni un'altra volta. Dopo tutto quello che è successo, solo i poveri vecchietti sono il bancomat del pinguino di Firenze. Tu avevi proposto la morte dei pensionati, quindi ti andrà bene, non lo farai sentire, me ne fotto, però almeno mi sono levata la soddisfazione di dirtelo, ciao. Marino, Marino, Marino, tu te ne devi andare, sindaco di Roma, non fare il mona, te ne devi andare, lascia Roma. Morato di Marina, una ragazza mora ma carina. A parte che io faccio sentire tutto, il nostro Lorenzo Nespoli non censura nulla, e poi è la classica tecnica, tanto non lo farai mai sentire perché sa che. Ma poi ma chi ha proposto la morte di chi? Non ti vediamo lì a proporre. Ma no, ma era, avevo fatto una battuta, mamma mia, quanta signora, quanto è suscettibile la gente appena gli tocchi la vita. Mamma mia, mamma mia, è suscettibile, ma figurarsi se sono contento che hanno bloccato la rivalutazione delle pensioni a 2000 euro. Ma figurarsi. Comunque, volevo chiedere, ma la tua bontà supera linea anche questa. Sì, dai, sì, fai sì. Sentire tutto. Che volevi chiedere, Luca? Vorrei chiedere alla romanissima Paola di trovare l'intruso nella frase sindaco di Roma, non fare il mona. forse è sindaco. Forse la parola. Il nostro Luca. Si è svegliato. Scoppiettante più del spumeggiante. Ma insomma è meraviglioso, trova l'intruso. Esatto, trova l'intruso. Credo di aver capito, ma forse sindaco, forse sindaco è la parola intrusa in questo caso. Il. Allora, vabbè, non lo so, questa è storia della carne. La carne. Che vuoi dirci della carne? Si sapeva già da prima, non è arrivato comunque esatto. Minaccia il sereno, diciamo che è stata un'ulteriore conferma. Noi non consumiamo tanta carne quanto in altri paesi, carne intendo dire intaccata, carne rossa, lavorata, e siamo anche un paese dove la lavorazione della carne da questo punto di vista è ottima. Ancora considerata un'arte. No? Cioè io penso è chiaro che se uno si fa 2 chili di carne al giorno potrebbe esserci qualche problema, ma voglio dire, ma Comunque noi abbiamo dato anche notizia di questo. Guardatevi Forchette contro coltelli, una storia appassionante veramente, sì, questo sì. Lo dico con orgoglio che Sky TG24 ha mandato in onda, e insomma sì, c'è un l'abuso di certo cibo non può che fare male. No, ma d'accordo, su però questo non c'è dubbio. Ma lo sapevamo già. Ma lo sapevamo già, ma infatti. Però si diventa, lavorano, cioè, è una questione di quantità. È una questione di quantità. Giorgio e ci poi scrive. Vorrei dire anche di qualità, perché io preferirei mangiare del manzo che è cresciuto a erba che. E quei polli da un euro al chilo, insomma. Effettivamente. Che adesso sì. Sono, diciamo, quelli vanno bene. Il buon Giorgio ci. Anche mangiare, vorrei ricordare, fa malissimo anche mangiare zucchero, troppi zuccheri. E è anche vero. Fare l'aerosol con i fumi di scarico dei diesel. Sì, è questo abbastanza. Sì, sì, anche questo effettivamente. Il buon Giorgio ci scrive che ha mangiato una. Le cose che già una bistecca ai ferri si è mangiato Giorgio. Oppure Marco mi scrive: stiamo organizzando una bella salamata di liberazione. Vabbè, così siamo noi italiani, no? Ci facciamo vedere così. Allora, volevo parlare anche di questa cosa, ma lo farò in rassegna stampa. Stupisce questo giudice che è l'estensore della sentenza che in Consiglio di Stato ha bocciato i matrimoni gay ed è uno cattolico convinto che su Twitter ritwitta le cose delle sentinelle in piedi? Vi ha suscitato qualche... Tu Luca ti suscita magari qualche scandalo? Avesse ritwittato di meno non sarebbe stato male. Lo so, però effettivamente... Visto il suo ruolo. Sì, però poi... lui fa un'intervista a Repubblica oggi a dire vabbè, ma il buon giudice è quello che lascia da parte le proprie convinzioni personali e quando giudica, giudica in base alla legge. Cioè, insomma. In questo caso è un po' difficile lasciarle da parte. Qui le opinioni hanno un peso. Cioè, sarebbe meglio che dicesse io ho diritto alle mie opinioni, però non credo possa sostenere di... Sì, tra l'altro invece che le opinioni non pesino. Il presidente del consiglio che ha giudicato invece è dell'Opus Dei, cioè proprio un numerario dell'Opus Dei. Insomma, qualche polemicuccia c'è su questa sentenza. Qualche polemicuccia c'è. Vabbè, ma insomma, l'approfondimento della sede stampa accelererà ancora di più la il legge. Lavoro politico sulla legge. E chi lo sa, Sarà un modo per accelerare i lavori, mettiamola così. No, io in un minuto devo dire che c'è la copertina di Daniel Craig, perché c'è la presentazione di 007 a Roma, lo so anch'io, perfino io, caro Luca, vedi. Ma tu non c'eri tu, bravo. Sul red carpet, c'era Marino anche, non... No, io non c'ero. Non c'eri, potevi incontrare il sindaco, il monaco, cioè nel senso il sindaco. Ma adesso questa cosa... Ma no, perché mi è venuto in mente l'intruso di prima, mi è saltato. Ma siete due ragazzacci, Era la soluzione all'intruso di prima che della signora della rassegna stampa, della segreteria. Ma voglio segnalare questo articolo. Intervistate Silvio Pezzotta, che è colui che ha avuto una figlia uccisa dalle bestie di Satana, ma decide di perdonare colei che ha ucciso. Caro Luca, il concetto del perdono è sempre molto complicato. Ma è anche più di perdono, è una cosa anche diversa, è veramente una storia pazzesca. Una storia pazzesca che trovate sul numero di Vanity Fair, mentre tu, cara Paola, alle 15, come sempre, sarai lì davanti alle telecamere per parlare di politica, si sa. Penso che da tanto, nello TG24 pomeriggio, grazie Alessandro, approfondiamo esatto. Tutto ciò che sta accadendo, a cominciare ovviamente da Roma, ti voglio al più presto sposar, non a Paola Saluzzi che è già sposata, va bene, vi saluto, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'IRP di Infracomitalia, anche in cloud. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, le 7:19 minuti, forza amici miei, anzi debosciatelli miei, è da un po' che non vi chiamo così, dai lo schema Allegri a palla. Oggi con Oscar Giannino parleremo un po' di dipendenti statali, la vicenda di Sanremo. Avremo ospite il sindaco di Reggio Emilia. Lui ha licenziato uno, credo un messo comunale, che faceva qualcosa di poco chiaro. Ci spiegherà come ha fatto, ma parliamo di questa vicenda certamente di Sanremo ancora oggi sui giornali, così come parliamo della vicenda di Roma. È ufficiale ormai, quasi, Marino pare che oggi ufficializzerà il ritiro delle dimissioni, quindi rimane. Avremo l'assessore Alessandra Cattoi, che è una delle fedelissime rimaste vicino a Ignazio Marino, sarà ospite nostra alle 8.40 per cercare di capire anche il clima e davvero capire, cercare, lo faremo con lei, se ci siano le condizioni per il sindaco marziano di rimanere in sella. Vedremo, vedremo. Ora andiamo a leggere i giornali intanto. Questo mercoledì 28 ottobre i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla finanza, sui certificati del tesoro a zero coupon, CTZ asta sotto zero, tassi biennali negativi. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre l'Unione Europea, i migranti e l'Italia sono un tema che trovate sui giornali come il Corriere della Sera. Profughi, la beffa delle quote. Dall'Italia all'estero solo 90 migranti in un mese. Dovevano andarsene 80 al giorno. Per il Corriere della Sera dunque è un flop quella ripartizione delle quote. Eppure proprio su questo, per gli sforzi che sta facendo l'Italia, l'Europa fa un'apertura sulla manovra. Repubblica, Unione Europea, Juncker apre alla flessibilità, sì alla manovra. Questo è il titolo di prima pagina. Così l'Unità, migranti, l'Europa parla italiano. La Stampa, l'Unione Europea apre all'Italia, emergenza sbarchi, conti più flessibili. Il Giornale la mette così: Renzi ci fa invadere per denaro. Libero invece sulla legge di stabilità: Renzi si è intascato 60 miliardi, i debiti dello Stato verso le aziende non sono stati saldati e il Premier usa quei soldi per la sua campagna elettorale. Mentre il Fatto Quotidiano sulla legge di stabilità accusa, col titolo di prima pagina, è la manovra di Confindustria, gli sgravi fiscali sono solo 1,3 miliardi. Per il Manifesto invece il sesso dell'angelo, e c'è la foto di Angelino Alfano, si parla di nozze gay e tra poco vedremo perché c'è una polemica, mentre il Messaggero apre proprio su Marino, il dietro front di Marino, resto. E allora resto, così pare. Tutti i giornali, ieri lo diceva Repubblica, ma oggi tutti i segnali sono concordanti. Ignazio Marino potrebbe proprio questa mattina ritirare le dimissioni. Come racconta Alessandro Capponi sul Corriere della Sera, pagina 10, ormai è una guerra di nervi, quella che il sindaco dimissionario e il PD stanno combattendo da giorni. Secondo la voce diffusa ieri, si tratterebbe di una sorta di ritiro tecnico delle dimissioni firmate il 12 ottobre. Quindi non per continuare fino al 2018, ma intanto per presentarsi in aula Giulio Cesare, il Consiglio Comunale, sia pure senza la certezza di avere con sé una maggioranza in grado di sostenerlo. Dunque potrebbe essere un ritiro giusto per andare a una spiegazione in aula, non per andare avanti tutta la legislatura. Forse pure il marziano si rende conto che le condizioni non ci sono più. Comunque, anche per il Fatto Quotidiano, Marino, dimissione in bilico, vado in aula e poi deciderò. Anche il Messaggero, Marino ci ripensa, ritiro le dimissioni. Il PD è in frantumi verso la sfiducia, sono 19 i consiglieri del PD che potrebbero lasciare Marino, l'abbiamo detto però più volte, servono 25 consiglieri comunali che sfiducino il sindaco per farlo cadere. E anche Repubblica dice: Renzi mi incontri. Sì, perché sarebbe questa una delle motivazioni che ha fatto arrabbiare e mandare su tutte le furie il sindaco di Roma. E cioè, come racconta il Messaggero con Fabio Rossi a pagina 6, il fatto che ieri Renzi dal Sud America abbia avuto tempo per chiamare, pensate, perfino Valentino Rossi. E Ignazio Marino è andato su tutte le furie perché gli hanno fatto notare: oh, il segretario del tuo partito chiama tutti! tutti, tranne il sindaco di Roma chiama tutti, perfino Valentino Rossi. Ed ecco allora che Ignazio Marino vorrebbe questo incontro con Renzi. Renzi non ci sente, è una prova di forza. Volano stracci, secondo il Corriere della Sera. Ignazio Marino avrebbe ormai identificato il traditore in Orfini, presidente del PD e segretario del Partito Romano, e Orfini di lui dice: non ci posso credere, che vergogna e che figura quella di Ignazio Marino. Insomma, volano gli stracci nel partito e staremo a vedere. Io l'ho detto, siamo nel giorno 7 dell'era della resistenza mariniana e dico Marino resisti perché ne vedremo delle belle. Lo dico da una settimana e pare che ci siamo. I biglietti per lo spettacolo del Consiglio Comunale sono già in prevendita, credo. Al di là di tutto, ovviamente è un'amara ironia la mia, perché in questo c'è una città che appare politicamente paralizzata. C'è una polemica sulla questione delle nozze gay. Sapete che in Italia non sono possibili per legge, c'è una legge in discussione sulle unioni civili, ma intanto è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato in pratica tutte quelle trascrizioni delle nozze tra omosessuali contratte all'estero da parte di coppie che poi vanno dai sindaci dei loro comuni, lo ha fatto anche Ignazio Marino, e chiedono di essere riconosciuti come coniugi. Alcuni sindaci, Ignazio Marino, ma anche a Bologna Merola, diversi sindaci in tutta Italia hanno trascritto quelle nozze. Il Consiglio di Stato ieri si è espresso con una sentenza a dire tutto ciò è illegale. La polemica è sorta perché il collegio che ha firmato questa sentenza è presieduto, come scrivono i giornali, da un presidente che è un numerario dell'Opus Dei. E soprattutto le polemiche sono legate invece all'estensore di questa sentenza, Carlo Deodato, 48 anni, che su Twitter si presenta così: giurista cattolico. E tra l'altro fa sapere Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, ha retweetato, cioè ha, come dire, ha messo in evidenza, ecco, per chi non conosce Twitter vuol dire che ha rilanciato a tutti coloro che lo seguono alcuni tweet fatti in precedenza qualche tempo fa da gruppi ultracattolici, dalle sentinelle in piedi, cioè quelle che manifestano silenziosamente leggendo i libri contro le nozze omosessuali e altre cose. Ha retweetato alcuni tweet della rivista Tempi. Dunque l'accusa è: non è che ha deciso e ha fatto questa sentenza in quanto ideologicamente orientato. Beh, Carlo Deodato fa un'unica intervista, viene intervistato da Repubblica, da Liana Milella, che dice in apertura: cede a questo colloquio dopo molte insistenze, visto che questo giudice, che fa parte dei 5 giudici del Consiglio di Stato che hanno bocciato le nozze gay, dice: io ho sempre pensato che un giudice debba esprimersi solo con le sentenze che emette, ma in questo caso è necessario chiarire il ruolo mio. Intanto non mi aspettavo questa bufera, dice Carlo Deodato. L'intervista la trovate a pagina 10 di Repubblica. La decisione tecnicamente e giuridicamente è corretta, senza inquinamenti ideologici. Sono rimasto molto sorpreso in quanto su questo punto il Consiglio di Stato si è limitato a confermare ciò che diceva il TAR del Lazio, nei confronti del quale non mi ricordo che siano state formulate medesime critiche. Beh, certo, ma in quel caso, chiede Repubblica, nessuno ha scoperto che il giudice estensore della sentenza aveva dichiarato su Twitter espressamente di essere cattolico come lei. La ringrazio di questa osservazione perché mi consente di precisare che le opinioni personali e la formazione culturale che appartengono a ogni giudice non incidono in alcun modo sull'esercizio della funzione. Un buon giudice è quello che applica la legge assumendo decisioni coerenti con essa, senza farsi in alcun modo condizionare dai propri convincimenti di ordine politico, morale o religioso. Scusi, ma com'è possibile che un giudice, quando valuta un fatto, possa tenere fuori le sue convinzioni? È molto più semplice di quello che si pensi, risponde Deodato. Basta limitarsi a identificare la norma di legge che disciplina la fattispecie in questione. E comunque io scriverei la sentenza allo stesso modo, anche se non è piaciuta ad alcune persone. Se cambiassi, allora sì che non sarei un buon giudice, invece riscriverei tutto esattamente così. Mi resta però una profonda amarezza per gli attacchi personali molto violenti che non penso di meritare. Mi auguro che questa conversazione contribuisca a rasserenare il clima. Insomma, mi accusano solo perché sono cattolico, se vogliono i matrimoni cambino la legge. Così parla il giudice Carlo Deodato in mezzo alla bufera per questi tweet in cui si professa cattolico. È lui che ha scritto materialmente la sentenza con la quale si bocciano i matrimoni gay. Va bene, alla prossima polemica su questa vicenda. Siamo invece al premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa più incazzare della giornata. E mi raccomando, se avete oggetti contundenti, come al solito appoggiate anche caffè bollente da appoggiare ora. È una storia che va in prima pagina della Stampa, la racconta Maria Teresa Martinengo e riguarda due famiglie musulmane che a Torino cambiano scuola ai propri figli perché dicono c'è la musica. La musica è una cosa fantastica, la musica, c'è la musica. E allora che problema c'è? Insegnano musica? L'Islam dice di no. Per l'Islam la musica è peccato e cambiano scuola ai bambini. Torino, due famiglie musulmane contro il progetto interculturale dell'Istituto Comprensivo Regio Parco. Hanno reagito in diretta le maestre a questo tipo di protesta da parte di due famiglie che come reazione hanno ritirato i propri figli da quella scuola. Poveri bambini. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il concito Wurst dell'informazione. Wurst, mi fa venire in mente i Würstel, ne parleremo più avanti, perché ci sono ancora i Würstel e le carni insaccate sui giornali oggi. Allora, intanto cominciamo dall'Europa. C'è un'apertura, sapete che una parte della legge di stabilità approvata in Italia prevede che l'Europa ci dia una maggiore flessibilità sui conti. Perché? Perché ci stiamo occupando della vicenda drammatica dei migranti e quindi questo ha inciso sulla nostra spesa pubblica. Ebbene, Bruxelles ha aperto su questo tema. Non c'è stata una conferma a dire vi daremo più flessibilità sui conti, cara Italia, ma il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, come racconta Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore, proprio a due giorni dal vertice sull'emergenza e immigrazione nei Balcani, ha confermato che Bruxelles valuterà con magnanimità i conti pubblici dei paesi europei che sono chiamati ad affrontare la crisi migratoria. Ha detto Juncker: se un paese fa uno sforzo straordinario, deve esserci un'interpretazione in linea con questo sforzo. Non ha citato paesi singoli, quindi non ha detto l'Italia, come non ha detto la Grecia, come non ha detto nessun altro paese, ma ha detto Juncker: vi sono paesi, anche tra i grandi paesi, che non fanno sforzi sufficienti. Se un paese fa uno sforzo straordinario, deve esserci un'interpretazione in linea con questo sforzo. Ovviamente la domanda che fa Beda Romano è questa: riuscirà dunque l'Italia a strappare flessibilità su tutti e tre i fronti, in un contesto di debito elevato, senza promettere alcun aggiustamento del deficit strutturale l'anno prossimo e rivedendo al ribasso i previsti tagli alla spesa? Questo lo si scoprirà nei prossimi giorni. Certo, è interessante capire che mentre l'Italia fa questi sforzi sulla questione migranti, l'Europa forse non fa altrettanto. L'articolo di Fiorenza Sarzanini, a pagina 3 del Corriere della Sera, sancisce il flop totale del famoso piano di ripartizione dei migranti sbarcati in Italia e non solo. Il fallimento del piano europeo, questo è il titolo di pagina 3. Il piano era chiaro: spostare 40.000 migranti, soprattutto eritrei e siriani, via dall'Italia per essere ospitati negli stati dell'Unione Europea che avevano accettato queste quote. 40.000 in un mese, sapete quanti ne hanno trasferiti? 90. da 40.000 da trasportare, 90. 40 sono andate in Svezia, 50 in Finlandia, tutto qui. Dovevano invece a un ritmo di 80 al giorno lasciare l'Italia, 80 al giorno invece 90 in un mese. Gli altri rimangono in attesa e a scorrere la lista delle disponibilità rischiano di dover aspettare per mesi, forse per sempre. Insomma, scrive Fiorenza Sarzanini, è un flop. Ciò che molti temevano si sta rivelando come il progetto fallimentare. La relocation. Evviva, evviva l'Europa. A proposito, ci sono tanti articoli ancora sulla legge di stabilità. C'è Susanna Camusso che è intervistata dal quotidiano L'Unità, da Vladimiro Frulletti, critica una manovra che dice la leader CGIL non cambia verso, anzi inizia questa lunga intervista che trovate a pagina 4 a dire partiamo dalle cose che vanno bene, perché facciamo prima, sono talmente poche di questa manovra che ci piacciono e che per il resto non ci piace nulla. Non piace per esempio la mancanza di giustizia sociale. Ci vogliono quantità molto più consistenti e programmi di lungo periodo per contrastare la povertà, dice Camusso, che non vede tra l'altro nella stabilità una svolta a favore della ripresa rispetto alle politiche rigoriste precedenti. Dice Susanna Camusso, per me siamo ancora dentro lo schema di austerità di Monti e di chi l'ha preceduto. Mancano gli investimenti pubblici soprattutto al sud, la crescita è affidata solo alle imprese. Insomma, una critica dietro l'altra per questa legge di stabilità da parte della leader CGIL. Lo trovate sull'Unità. La trovate questa intervista. Mentre ci sono due articoli interessanti sui pagamenti alle imprese. Uno è di Libero, è il titolo di prima pagina, l'accusa del direttore Maurizio Belpietro è questo. Renzi si è messo in tasca 60 miliardi delle imprese, cioè i soldi che servivano per pagare. In realtà Renzi se l'è messi in tasca. Lo studio di Banca Italia è però più preciso sul Corriere della Sera sui pagamenti alle imprese, per l'appunto. Francesco Di Frischia racconta: nel 2014 i debiti della pubblica amministrazione verso i privati ammontano a poco più di 70 miliardi, ma sono diminuiti di 20 miliardi tornando ai livelli del 2008 negli ultimi due anni. Risultato raggiunto grazie a ingenti risorse messe a disposizione dal Tesoro, alle nuove norme in materia e all'attenzione politica. Questi sono alcuni dei risultati di uno studio realizzato da Banca Italia. Restituiti dunque 20 miliardi, il saldo medio ormai è a 130 giorni. Saldo medio, lo so che voi avrete un'impresa in questo momento all'ascolto con la pubblica amministrazione, dite «Ah, ma non mi pagano da 700 giorni». Lo so, il saldo medio è a 130 giorni. Certo, c'è da dire, sempre da questo studio di Banca Italia, che solo il 40% delle anticipazioni a province e comune sono usati per i rimborsi. Solo il 40%. E gli altri non si sa. Mentre sulla legge di stabilità c'è questo articolo di Alessandro Robecchi, in prima pagina del Fatto, molto interessante, perché va a pizzicare Renzi su una vicenda che riguarda anche il viaggio che Renzi sta facendo in Sud America e che credo finisca oggi, visto che domani Renzi dovrebbe intervenire a Torino. L'iniziativa di Renzi è questa: è andato in Cile a magnificare a Paranal l'ESO, cioè lo European Southern Observatory, un sistema di meravigliosi telescopi che servono a studiare il cosmo, a studiare l'universo. Ebbene, anche l'Italia contribuisce a questo progetto ESO. Solo che mentre Renzi era lì a magnificare, a dire beh, fantastici questi super telescopi, anche l'Italia è in prima linea per sostenere questo progetto, Alessandro Robecchi dice: mentre era lì si scopre dalla legge di stabilità che proprio questa legge di stabilità taglia i fondi a questo progetto ESO, per il quale l'Italia contribuisce con 15 milioni all'anno. Ma sono stati ridotti di un milione all'anno, quindi su 45 milioni in tre anni, 3 milioni in meno. E allora ecco l'articolo in prima pagina del Fatto. Renzi, fate super telescopi, che bello, e gli taglia 3 milioni. A Paranal visita all'ESO con foto e celebrazioni, ma nella manovra, nella legge di stabilità, spunta la sorpresa, proprio all'ESO tagliati 3 milioni di euro. Insomma, questa è la critica che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina. Ma eccoci qui. Ci sono tantissimi articoli ancora, a me fanno venire una fame a questa, i bratwurst, i rognoni, no, i rognoni mi piacciono un po' meno, i prosciutti, le salsicce, le mortadelle. Oh ragazzi, si aprono i giornali per questa storia dell'OMS e alle 7:43 del mattino mi viene una colina in bocca che, insomma, devo andare subito dalla capolista, da Mauro Meazza. Ma smettila, ma smettila, che fastidio. Che fastidio, Peter Bescapè, togli queste interferenze. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salutate la capolista, anche se diciamo temporanea, però sempre capolista. Volevo dirti, se sei già con la colina in bocca, leggi nelle pagine di Impresa Territorio oggi, ti spieghiamo che sulla materia, sulla vicenda di questo studio dell'AMS e la possibile nocività di alcune carni, ci sarà anche uno studio, un intervento della Commissione Europea, quindi cominciano a un po' alle precisazioni. Peraltro quello che si teme è più che altro il tam-tam mediatico, magari in rete, che porta delle posizioni poco meditate. Sulla legge di stabilità vedo che ti stai appassionando e me ne compiaccio. Noi peraltro anche sulle 24 ore se ne occupa oggi, ovviamente se ne occupa in più pagine. In una delle primissime pagine segnaliamo che ci potrebbero essere dei ritocchi su pensioni e tetto al contante. Forse diventa una cosa solo temporanea, vedremo, perché la legge di stabilità è solo agli inizi del suo cammino parlamentare, avremo tanti giorni per parlarne, caro Alessandro. Invece ti voglio dire, ieri c'è stato il debutto, due notizie finanziarie importanti, il debutto di Poste in borsa e poi questa asta in cui abbiamo avuto i tassi sotto zero. Cioè, le persone sono disponibili a prestarci del denaro addirittura senza averne una remunerazione perché credono nella solidità dei nostri conti. Ma riferiamo a pagina 3, ti spieghiamo tutto come sempre a pagina 3 questa mattina, Andrea Franceschi. Ti posso anche dire una cosuccia invece sulla legge di stabilità, come che no? Magari sfugge. Sai che il canone della RAI passa in bolletta, passerà in bolletta, certo. Quando? Ecco, però... Non, siccome dovrebbe aumentare l'incasso, non va però alla RAI, ma andrà al fondo per la riduzione delle tasse. Certo. Quanto si prenderà in più andrà al fondo per la riduzione delle tasse. Questo, quindi il recupero dell'evasione andrebbe da quella parte lì. Vedremo poi come andrà a finire. Mi sembra una buona notizia. Meno una buona notizia che si annuncia un nuovo ricorso di un sindacato per l'Agenzia delle Entrate, quindi lì il tormento non sembra finire, lo riferiamo oggi naturalmente nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Dir Pubblica prepara un nuovo ricorso sulle cosiddette posizioni organizzative speciali, vediamo come andrà a finire, forse settimana prossima si chiarirà la situazione politica. E infine, infine si fa per dire, perché le cose da dirti sarebbero moltissime. Se hai aderito alla voluntary disclosure, era un po' che non te ne parlavo, ti mancava. Sappi che puoi anche integrare la tua domanda con una mail, un'email. C'è stata ieri una precisazione importante, lo riferiamo, indovina un po'. Su norme tributi. Bravissimo. E poi due cosucce legate al mondo, anzi tre legate al mondo delle automobili. Allora, da una parte... c'è un po' di disaccordo sui test su strada, quelli sulle emissioni che dovrebbero partire a gennaio nell'Unione Europea, però il Comitato Tecnico e la Commissione non si sono mica tanto messi d'accordo. Lo spieghiamo in finanza. Tu hai una Volkswagen? No. Però ho già chiesto. Sì, varie volte. Se vuoi la compro. La seconda cosa è che la Ferrari, nel senso delle azioni, della quotazione, si quoterà in borsa anche a Milano, lo riferiamo oggi a pagina 2, non solo a New York, dove non siamo riusciti a comprare perché non mi hai dato il denaro necessario, la provvista, come si dice in gergo. E infine, già oggi potrebbe esserci il primo voto della Camera sulle nuove norme per il cosiddetto omicidio stradale. Lo scrive Maurizio Caprino da par suo nelle pagine di Norme e Tributi. E dopo questo trittico automobilistico, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Milan, il pane Nutella dell'informazione. Zebon, zebon, zebon. Allora, grazie caro ascoltatore, alle 7:50 minuti, siamo un po' di corsa. Oggi il giornale, a proposito di canone della RAI, racconta questa notizia con Maddalena Camera. I 100 euro del canone RAI, ecco come spenderli meglio. C'è una proposta di questo tipo a dire, beh, basta, visto che sono collegati alla TV, come ci ha detto il sottosegretario Giacomelli, cioè al possesso della TV, basta togliere la TV, prendere, che ne so, una console per videogiochi, collegarla a un video e vedere la RAI via internet in streaming. Non pagate il canone e con questi 100 euro ci si può abbonare a una serie di servizi alternativi. Ovviamente il giornale propone, che ne so, Mediaset, Sky, Apple TV, Netflix. Insomma, siamo proprio alle strategie di sopravvivenza o di lotta quotidiana con il canone della RAI. Parleremo anche di impiegati infedeli, impiegati dello Stato infedeli. Oggi il Secolo XIX torna sulla vicenda di Sanremo, la corsa a timbrare poi al bar o a fare shopping, ci sono tutte le foto, c'è chi faceva la passeggiatina col cane dopo aver timbrato e prima di prendere servizio, chi andava a fare il pranzo, magari era il turno del pomeriggio delle 13, timbrava, poi andava a fare un pranzettino Sanremo, bello, lungomare, e poi andava a lavorare. Oppure chi andava a fare la spesa all'ortofrutta, chi prendeva la Vespa del comune, quindi una bella motoretta, e se ne andava a fare spesa, poi portava tutto a casa e poi prendeva comodamente servizio, chi faceva le pause caffè, chi andava in giro tra bancarelle, o insomma ce ne sono di ogni tipo, va bene, su Sanremo. Ecco, attenzione, c'è anche il vigile famoso che è andato a timbrare in mutande, Alberto Muraglia, che dice: sono andato a timbrare in mutande perché mi stavo mettendo i pantaloni per un servizio urgente, cioè spostare un furgone che intralciava al mercato. Erano le 6:23 del mattino e alle 6:30, come dimostro, ho fatto già la multa. Dunque avevo preso servizio alle 6:30, come precisato. Eccolo qua, lo faccio vedere in diretta anche su Periscope. È rimasta un'immagine storica, il vigile in mutande a Sanremo. Va bene, c'è qualcosa di esteri se volete, cioè soprattutto in Iraq e in Siria c'è la strategia delle 3R annunciata dal segretario alla difesa americano Ashton Carter, e cioè le 3R sono Raqqa in Siria, Ramadi in Iraq e RAID, cioè RAID aerei. L'idea è il piano di Obama di rimandare soldati in Siria e Iraq. È l'apertura di Avvenire che si lancia in una nuova parola messa in prima pagina, cioè Sirac, per mettere insieme Siria e Iraq. Sirac, questo è il titolo di prima pagina. Vabbè, vi interessa sapere che Fabrizio Corona va a casa? Agli arresti domiciliari, può lasciare la comunità di Don Mazzi. Il Giorno dedica una pagina a questo, con la frase classica di Corona: sono cambiato, l'ha detto 4.000 volte, sono cambiato, va agli arresti domiciliari, ma non può rilasciare interviste, ma non può utilizzare Facebook, quindi la vera condanna ce l'ha comunque Fabrizio Corona. Però i giudici mandano Corona a casa, niente foto, niente social network, niente interviste, Fabrizio Corona torna a casa per scontare il resto della pena. Ma attenzione, la carta costa è questa, udite udite, cari adolescenti, cari ragazzi, cari ragazzini, care ragazzine, cari genitori che accompagnate i ragazzini e le ragazzine a scuola, c'è un annuncio importante, fondamentale, che prende una intera pagina del Corriere della Sera, pagina 41, eccola qua. È la svolta mistica di Justin Bieber. Basta eccessi, ora seguo Gesù. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and... Gian Oscar Giannino. Licenziato. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta, basta, basta. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Questo licenziato tu lo vuoi per Ignazio Marino, no, lo so, no, caro Oscar, no, lo so, no, lo più, so. Più che altro nelle cronache di questi giorni vediamo che molti esponenti del PD lo dicono ad altri esponenti del PD in maniera incrociata. Ma tu lo vorresti per Ignazio Marino, ma lui resiste. Resiste, come il Che Guevara nella giungla boliviana. Eh sì, resiste. Pare che oggi ci sia giunta. Ma giunta come, o ma giungla? No, giunta. La giungla c'è tutti i giorni, ma per i romani, credo. Sì, ma pare che piantino anche delle piante al Campidoglio, perché così rendono più difficile per i marini la presa del Campidoglio, cacciare l'eroico marino. Mamma mia, noi avremo ospite Alessandra Cattoi, che è un assessore. Lo so che è un po', sembra un po' ridicolo dire c'è l'assessore, ma c'è l'assessore, c'è la giunta, è tutto normale, è tutto normale. Ed è una fedelissima di Ignazio Marino, anche lo conosce molto bene da anni, quindi ci dirà che cosa sta succedendo. Ma tu l'hai capito? Perché io francamente leggendo i giornali non troppo, cioè ho capito che c'è un'area viziata che è tutta dentro, oltre alla storia del sindaco, molto dentro il PD. Leggevi prima un articolo spassosissimo di Mario Aiello che descrive i 19 membri del gruppo PD in Campidoglio, in cui ci sono gli ex orfini di, nel senso che orfini. Il commissario che adesso orfini. È diventato anche lui idolo delle polemiche dello stesso PD a Roma, pure lui, ci sono gli orfini di, gli ex orfini di, i renziani, poi ci sono i franceschiniani, sì. Poi ci sono i mariniani della prima ora, i mariniani mezzo pentiti e quelli tre quarti pentiti. No, vabbè, capisci che... anche i margheriti di, credo, c'erano. No, vabbè, ma siamo veramente al paradosso. Eppure giorno 7 della resistenza mariniana c'è soprattutto Ignazio Marino molto arrabbiato con Renzi, perché dice: ma Renzi, che è in Sud America, trova anche il tempo per telefonare a Valentino Rossi, per carità icona dello sport italiano e mondiale, e a me manco mezza chiamata. E quindi pare che abbia pensato di buttare qualcuno giù in moto per farsi telefonare anche lui. Marino. No, lui va in bicicletta, al limite può speronare qualcuno in bicicletta, però a lui no, quindi telefonate a tutti e a lui no. Certo, però questo PD sta veramente... Pensa cosa ha detto ieri De Luca della Bindi. Ah, De Luca. De Luca è andato da Lilli Gruber 8:30 e ha detto che la Bindi è impresentabile in tutti i sensi. Sentite qui. Lei è molto generoso con l'onorevole Rosaria Bindi, che ha violato più di una regola. Ma ha votato il suo partito. Lasci perdere il regolamento. Quando si riunisce la commissione antimafia bisogna riunirla. Non è che ti svegli la mattina e a 24 ore alle elezioni ti inventi la categoria degli impresentabili. Chi sono gli impresentabili? Ecco, sì. Per me è impresentabile l'onorevole Rosaria Bindi. Lei insomma non aveva impresentabili nella Non so sua se lista. È chiaro. Se l'avesse detta Berlusconi, cosa che ha fatto peraltro, una cosa simile, no? Succederebbe, l'ira di Dio. Impresentabile in tutti i sensi. Del resto si scopre che a dire oramai a Marino resisti, sono praticamente tutte le opposizioni italiane del PD che dicono a questo punto insisti, perché la figuraccia così la facciamo fare a Renzi. Cioè tu dici che c'è questo sì. giochino da parte di alcuni del PD, sì. Stai lì Marino che così Renzi sì. lo mettiamo... Perché mi pare che oramai l'odio interno, basta vedere chi firma le impugnative alla Corte d'Appello pur sapendo che la Corte d'Appello attualmente non può avere competenza. Vedo anche parole pronunciate da Bersani che dice: però il PD oramai si chiama isolamento e inconsistenza. Infatti Marino ieri ha chiamato Bersani. Chiamato anche Del Rio, non si capisce, l'ha chiamato Del Rio o no? Tu come hai capito dai giornali? No, allora, pare che abbia chiamato Del Rio, ma Del Rio ha smentito, quindi ora cosa credere? Come sempre non si riesce a capire. Non siamo nei telefoni di Marino però e di Del Rio. Mi pare che la lotta interna nel PD sia il capitolo 1 rispetto a 2 problemi del sindaco Marino di fronte alla città. Sì, il Partito Democratico. Parliamo di questo, se volete, 800-24-0024. Non parliamo solo di questo. Sai che, Oscar, ancora ci chiamano, ci dicono per la questione dei dipendenti, i dipendenti pubblici che truffano. Oggi il Secolo XIX fa vedere tutte le foto di quello che andava in motoretta, quello che a Sanremo andava al mercato, quello che andava al bar, al ristorante. Sono i giornali pieni di queste giustificazioni inaccettabili del vigile urbano in mutande che dice: ma io abito là sopra, quindi figuriamoci, cioè, tutte cose che uno non può leggere. Voglio far l'avvocato del diavolo, ma se fosse vero, se fosse vero che lui ha un appartamento d'ufficio lì, ha firmato alle 6, ha timbrato alle 6.23 e alle 6.30 dice: sono andato, ho messo i pantaloni, ho fatto la prima multa. E allora scusa, se fosse vero e ha iniziato alle 6.23, era con la sua regolare divisa a timbrare, perché altrimenti no? Guarda, io ancora una volta richiamo oggi Riccardo Ruggeri di nuovo su Italia Oggi, titolo del suo pezzo: Sanremo 128 persone in organico, però funzionava con 333 e quindi 695 lavativi sono una buona prova di quello che può venire dalla PA, pensiamoci. È così, è così. Ma tu sei dell'idea che siccome il dipendente è pubblico, è la cosa pubblica, quindi non è di nessuno, no, e quindi mediamente c'è più possibilità di dire chi se ne frega? No, io non generalizzo, io dico che i dirigenti chiudono gli occhi perché così si fanno altri piaceri più in alto, una cosa lava l'altra. Quando queste percentuali sono così diffuse in posti concentrati, io non penso che sia il totale della pubblica amministrazione su queste percentuali, no. Vuol dire che dall'alto, cioè il problema è che sotto tutti ne approfittano e però nessuno è in grado di intervenire, dai su. Ma anche perché leggevo una ricerca, una statistica di recente, domenica credo, sui giornali: i dipendenti pubblici si ammalano in media al doppio dei dipendenti privati, è un dato di fatto, è incontrovertibile, cioè in media 10 giorni all'anno e il dipendente privato 5. Quindi voglio dire, o sono più cagionevoli forse, hanno a che fare con lo Stato. Dai Oscar, ti ha fatto un assist, hanno a che fare con lo Stato. Tu lo dici, ironicamente, lo Stato è approfittare delle cose che paghiamo noi, da parte dei politici, degli amministratori, dei dipendenti. Lo so che questo per te è difficile da buttare giù, io sono minoritario, però come si vede gli atteggiamenti poi restano questi, no? Che ne so, vogliamo parlare del giudice Deodato. Ah, quel giudice che ha firmato, ha scritto la sentenza contro i matrimoni gay. Allora, quel giudice è cattolico, e fin qui non c'è nulla di male. Solo che si professa cattolico, su Twitter ritwitta le sentinelle in piedi. Tra l'altro il presidente di quello stesso collegio invece è un numerario dell'Opus Dei. Vabbè, ma per questo non può fare il giudice? Cioè, questa è la... Però hai visto che la reazione di tutta la parte, una parte della politica è: ah, scandalo. E allora delle due l'una, non so come la pensi tu. E che cosa dobbiamo accettare? Solo i giudici vanno bene solo quando hanno delle opinioni forti di un tipo e non di un altro? Secondo me no. Io la penso un po' come Pierluigi Battista oggi sul Corriere: i giudici, i magistrati in generale, non solo i giudici, dovrebbero andarci più piano a comunicare pubblicamente le proprie idee, cioè devono avere anche l'apparenza delle idee. Vabbè, ma è una questione di comunicare le idee, ma quelle idee, che le comunichi o no, le ha. Cioè, se è cattolico e se il presidente è dell'Opus Dei, rimane presidente dell'Opus Dei. Il fatto che si sappia o no non cambia nella sostanza. Scusami, perché non lo applichiamo solo alla famiglia, pensa solo a quanta politica fanno i magistrati delle correnti, correnti magistratura. Io a quello sono contrario. Questo vale per... Cioè dovrebbero astenersi dal giudicare? Dovrebbero parlare solo con gli atti pubblici relativi alla loro scelta di fare i magistrati. Secondo me non dovrebbero fare la politica, non dovrebbero poter entrare in politica e rientrare. La pretesa di dire: io giudico della libertà, del patrimonio e della vita, come si fa con il matrimonio di tutti, e contemporaneamente scrivo, parlo, faccio opinione. Sì, però qui la questione mi sembra di dire che è questo presidente dell'Opus Dei, e lui che è un cattolico, se non avessero comunicato su Twitter avrebbero deciso, forse in base alla loro ideologia, loro dicono ovviamente di no, ma noi non l'avremmo saputo semplicemente perché non avevano l'account di Twitter. Però questa è una contraddizione insanabile quando si accetta l'idea che un giudice decide. Allora, deve sembrare indipendente. Non sarà mai, hai ragione tu, è un uomo e quindi ha le sue convinzioni. Deve però altrimenti, noi, perdonami, contestiamo Deodato perché vuole la famiglia tradizionale, ai giudici invece che espropriano l'Ilva senza indennizzo li applaudiamo perché sono comunisti. Bisognerebbe decidere. A me non piace né l'una né l'altra. Bisogna decidere in base alla legge e mettere da parte le proprie ideologie, cosa che questo Deodato dice: ho fatto, nel senso che su Repubblica fa un'intervista e dice: io è vero, sono cattolico, ma quando ho deciso, decido in base alla legge, lascio fuori le mie convinzioni. Lascio fuori. Il problema è che se tu non fai altro che propalarla è un po' difficile sostenerlo, però. esatto. Comunque. Allora, però, noi, siccome parliamo di dipendenti pubblici così, infedeli, mettiamola così. Abbiamo chiamato il sindaco di Reggio Emilia, che ringraziamo per essere con noi, Luca Vecchi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Perché buongiorno, lei ha raccontato che si può licenziare, è successo credo per un messo comunale che secondo le indagini faceva il gommista in nero, in orario di lavoro ovviamente. E cosa ha fatto lei come sindaco? Ma guardi, tanto buongiorno a tutti. Io devo dire una cosa, perché si dice sempre cosa ha fatto lei. Non è il sindaco, non è la giunta, non è la politica che determina i licenziamenti di una pubblica amministrazione. Un funzionamento corretto ed efficace della pubblica amministrazione è quello in cui il suo stesso gruppo dirigente, che è autonomamente in grado di rilevare l'infrazione e di assumere i provvedimenti coerenti e conseguenti. Nel caso specifico è stata la tecnostruttura del comune che ha rilevato questo e che autonomamente ha deciso e poi mi ha comunicato. Ha deciso di che cosa? Licenziare. Di procedere al licenziamento a fronte del fatto che era stato rilevato questo tipo di infrazione. E io voglio dire questo perché nel confronto con Sanremo, siccome penso che il sindaco di Sanremo sia stato eletto più o meno quanto me, poco più di un anno fa. Esattamente. Cioè, quello che emerge è l'evidenza oggettiva su Sanremo di qualcosa che lui ha ereditato evidentemente, cioè di un problema di sistema proprio per la sua dimensione quali quantitativa. E se lo paragono con quello che ho ereditato io, lo devo dire molto sinceramente, io ho ereditato una cultura del lavoro pubblico di un certo livello, ho ereditato un comune con i conti in ordine e funzionante. I lavoratori è interessante pubblici, Oscar, quello che ci diceva il sindaco, quello che dicevi, tu al sistema cosa, che non funziona. Mi faccia dire una cosa, i lavoratori pubblici su cui è giusto focalizzarsi quando non fanno il loro dovere e si assumono i provvedimenti conseguenti, sono quelli che da noi aprono tutti i giorni i nidi e le scuole dell'infanzia riconosciute in tutto il mondo, che fanno funzionare le biblioteche. Nessuno nega, signor sindaco, però non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che il sindaco uscente, il predecessore rispetto a quello eletto a Sanremo, lui dicendo che se provava a sollevare il problema veniva addirittura sottoposto a delle angherie, cioè gli davano del nazista, Gestapo e così, preferì andare dalla Guardia di Finanza in procura. Uno, due, il successore appena eletto viene informato ufficialmente che l'indagine della Procura d'Imperia e della Guardia di Finanza ormai è in corso e si trova nella condizione per mesi di sapere che ci sono i controlli molto penetranti e lui deve far finta di non saperlo di fronte ai dirigenti del comune, cioè delle condizioni kafkiane. Quindi noi ci poniamo il problema, a quel punto il sindaco, anche se si trova a ereditare un sistema connivente dal punto di vista dei dirigenti della macchina pubblica, che sono quelli chiamati a fare quello che ha detto lei, che è accaduto a Reggio Emilia, che cosa può fare? Perché a Sanremo hanno dovuto fare la parte delle teste di legno ed è un po' imbarazzante, posso dire. Lei cosa pensa? A Sanremo è chiaro che c'è l'evidenza di un problema di sistema che interroga il gruppo dirigente quanto le responsabilità politiche amministrative, questo è fuori discussione. Perché a quel punto il sindaco deve poter dire anche secondo me questo e quel dirigente secondo me non stanno facendo quello che sono chiamati a fare sui controlli dei funzionari, ma a quel punto il sindaco ce l'ha il potere di cambiare anche il dirigente? Certamente, sindaco e giunta sono nella condizione di assumere deliberazioni sulla struttura e di produrre quei cambiamenti necessari e di introdurre quei processi anche di controllo e di audit interno finalizzato a capire là dove ci sono dei problemi di funzionamento. Poi io le ho fatto l'esempio prima di quello che è accaduto a Reggio per dire che una pubblica amministrazione che funziona come quella che io ho ereditato ha una sua anche capacità di autoregolazione nell'individuazione dei problemi e nella soluzione degli stessi. Isolare questi stessi problemi, però sindaco, questa persona so che ha fatto ricorso, cioè c'è il rischio concreto se un giudice deciderà in tal senso che lei se lo ritrovi ancora. È chiaro che questo è la giustizia italiana e chi viene in un qualche modo licenziato ha, dal suo punto di vista, il diritto anche di fare ricorso. Noi naturalmente resistiamo nel ricorso convinti delle ragioni per cui siamo giunti a quei provvedimenti. Su questo non c'è dubbio. Comunque è importante sottolineare a tutti coloro che ci ascoltano che la prassi spesso seguita nella pubblica amministrazione di aspettare gli esiti pluriennali delle sentenze su eventuali inchieste penali sugli illeciti compiuti o le infedeltà della pubblica amministrazione non è affatto ciò che deriva dalle leggi vigenti. Le leggi vigenti, con indagini e decisioni amministrative, consentono di prendere tutti i provvedimenti, compreso il licenziamento. Sindaco, ma noi la ringraziamo insomma per questa testimonianza preziosa, perché ci fa capire, e non lo so se gli ascoltatori cosa ne pensano. C'è un ascoltatore forse, Paolo dalla provincia di Cuneo, che proprio ci chiama su questo tema. Paolo, buongiorno. La sentiamo dalla provincia di Cuneo, lontana, no? In auto. Dica, Paolo. No, io sono in auto, ora se riesco mi fermo per usare, non sì, il viva voce. Comunque, io vi ho già telefonato, sono direttore sanitario dell'ASL di Cuneo 2, Alba Bra. E purtroppo devo dire che non siamo tutti uguali in questo paese. Voi, come Sole 24 Ore, avete fatto un'indagine anni fa sull'assenteismo. Sì. Nella nostra SL ci sono 5 giorni di media di assenteismo per dipendente, a San Camillo 25. Ora noi siamo un po' stufi di essere assimilati al peggio. Peraltro io vi avevo anche detto in un altro intervento fatto da voi, sì, che abbiamo la quota capitaria più bassa del Piemonte, fra le più basse d'Italia. Vabbè, ma lei orgogliosamente e giustamente dice, vedete che si può generalizzare, perché la generalizzazione non l'abbiamo fatta. Ci sono luoghi dove la cultura del lavoro, la dedizione al lavoro pubblico è più elevata, perché il sistema di regole viene fatto osservare diversamente. Perché ci sono più controlli, Oscar, perché ci sono più controlli evidentemente, perché l'occasione fa l'uomo ladro, non l'ho inventata io, non l'ho inventata tu. Quindi evidentemente ci vuole qualcuno che dall'alto controlli, no? O no? Comunque la ringraziamo, Paolo, che è il direttore sanitario dell'ASL di Cuneo, che c'ha ASL 2, se ho capito bene. Il ringraziamo anche... Io a nome degli abitanti di Bra difendo anche gli abitanti di Bra. Vabbè, la piemontesità. C'è una famosa salsiccia di Bra, l'ho voluto dire per questo, mamma, che ovviamente in questi giorni... C'è un'acquolina in bocca, uno prende i giornali o ha l'acquolina in bocca, chissà perché, ci sono ste foto di würstel, di salsicce, di carne. Senti, gli Oscar li diamo più avanti perché siamo un po' di dobbiamo corsa e tra poco avremo Alessandra Cattoi, assessore della giunta Marino a Roma, ancora in carica, resistente, tutta in carica, tutta in carica. Siamo qui, sono le 8:39 minuti, caro Oscar Giannino, siamo con un assessore del Comune di Roma. Ora noi la presentiamo così, Alessandra Cattoi, buongiorno, perché fa un po' buongiorno e benvenuta intanto, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Fa un pochino sorridere dire assessore del Comune di Roma, della Giunta Marino, cioè, ma ci aiuti a capire gli ascoltatori, è tutto confermato, è tutto a posto, c'è una riunione di giunta questa mattina? C'è una riunione di giunta come ne abbiamo fatte altre in questi giorni, anzi devo dire che si sono intensificate le riunioni di giunta perché tutti gli assessori e anche il sindaco vogliono portare a termine quei provvedimenti che erano in corso e che precipitosamente evidentemente dobbiamo approvare dalla giunta. Oggi a che ora vi vedete per esempio? Alle 11 e forse anche nel pomeriggio una seconda giunta, perché abbiamo veramente molti progetti da portare a termine. Però mi faccia capire, cioè portare a termine perché, e questa è la domanda che insomma si fanno tutti, perché il sindaco conferma le dimissioni, perché i giornali dicono che oggi le ritirerà, cioè ci faccia entrare un po' nella testa di Ignazio Marino, visto che lui non parla ufficialmente. Ma guardate, in realtà la questione è molto semplice, il sindaco è dimissionario perché c'è in corso una crisi politica con la sua maggioranza, il Partito Democratico dice che non ha più fiducia nel sindaco e quindi evidentemente un sindaco non può governare una città, tantomeno la capitale d'Italia, se non ha la maggioranza in Consiglio Comunale. Questo è un fatto e da qui mi sembra che sia chiaro a tutti. Dopodiché il sindaco dice ok, c'è una crisi politica, però la crisi politica si deve dipanare all'interno delle sedi istituzionali e quindi la riflessione è dobbiamo fare un confronto, dobbiamo spiegare a noi stessi, ai cittadini, agli elettori che hanno votato il sindaco e che chiedono ma Marino, ma perché se ne stai andando a casa? E lui risponde perché c'è una crisi col PD. Allora caro PD, ma perché stai mandando a casa il sindaco? E lì si dice perché c'è una crisi, ma non si riesce a entrare nel merito delle questioni. Allora questo è quello che è tentato di fare il sindaco, di ritirare le dimissioni, non perché pensi che si risolve così per una parlare crisi in politica, Consiglio Comunale, ma perché in Consiglio Comunale, che è la sede democratica, ma guardate è tentato o lo farà? Cioè, ce lo dico, perché lei lo sa, lei è molto vicina al sindaco, cioè ritirerà queste dimissioni oggi? Io so che da alcuni giorni è stato tentato un dialogo anche con i vertici del Partito Democratico ed è un dialogo molto complicato e quindi probabilmente io non glielo so dire al 100% perché sa al 90%. Giorni, però diciamo che non essendoci altre vie di confronto in questo momento aperte, l'unica che rimane è proprio quella istituzionale, quindi ritirare le dimissioni è un po' la strada per poter avere questo confronto, per poter spingere a parlarsi, a dire davvero che cosa è stato fatto anche di bene, perché io penso che molte cose buone siano state fatte, il PD probabilmente avrà delle cose da dire sulle cose che non sono andate bene, ma questo momento è un atto dovuto, non si può mandare via un sindaco, tra l'altro i cittadini. Ma si è dimesso lui però, assessore Cattoi, si è dimesso lui, cioè ha detto mi dimetto, si è presentato ai cittadini. Certo, lui si è presentato dimissionario perché vi ricorderete bene, una decina di giorni fa, due settimane fa, sembrava che il sindaco fosse colpito da un'enorme vicenda giudiziaria legata alle spese di rappresentanza. Questo lui non se l'è sentita di avere quest'ombra, quindi ha detto io faccio un passo indietro, ha chiarito davanti ai giudici tutto quello che doveva chiarire, dopo ora che fa un passo avanti, si è spostato su un altro tema. Che non è mai chiaro, Oscar, insomma, mi sembra di capire, però, Alessandra Cattoi non ce lo dice, ma ci sta dicendo che ritirerà le dimissioni. Ha fatto un ragionamento per il quale, se posso essere più esplicito, forse mi sbaglio, mi interrompa se non è così, perché Alessandra Cattoi ci ha detto, si è tentato un dialogo con i vertici del PD, tradotto sappiamo noi giornalisti che Renzi si nega al dialogo, perché ha parlato con Bersani, da quello che sappiamo, che gli ha detto, dica tu con la tua coscienza, però Renzi si è negato. Allora Cattoi ci ha detto, siccome si è tentato un dialogo, il dialogo non c'è, cioè non c'è alcuna intenzione da parte del segretario del PD di riconoscere dei meriti al sindaco e di concordare una procedura di eventuale uscita ma con onori politici e così via, allora cari 19 consiglieri del PD, io ritiro le dimissioni, vediamo in aula, siete compatti? Vi dimettete? Però vi mettete una sfida, d'accordo con cioè, cos'è ma come dicevamo all'inizio, io vedo in queste parole, se le ho ben interpretate, l'assessore Cattoi, la conferma che oltre, per me c'è un problema di Marino nel tempo di fronte a Roma, ma c'è un enorme problema tra il PD, i suoi guai interni e i rapporti questo con Marino. Sì, e quindi ecco che cosa succede. Ecco perché il messaggero titola. Se mi posso permettere, ci mancherebbe. Secondo me c'è un problema anche nei confronti dei cittadini. Noi ce li dimentichiamo, ma sono loro che hanno detto sia il sindaco che i consiglieri comunali. Ha ragione. Quei consiglieri comunali non devono rendere conto, come giustamente deve essere, se no si regna il caos, al loro partito di riferimento, devono rendere conto ai cittadini e devono spiegare perché quel voto libero e democratico dato a loro e al sindaco a un certo punto non vale più. C'è un chiarimento e la difficoltà è proprio questa. A me, quando i cittadini davanti alla scuola dei miei figli mi fermano e mi chiedono ma assessore, ma perché il sindaco va a casa? Io non so rispondergli. Ma non ha fatto errori, non avete fatto errori, cioè i cambi di giunta. Su, assessore Cattoi, non è che si può. Anche sugli scontrini ha cambiato varie versioni, Cenavo non era mia moglie, era un assistente, no, era una scienziata, l'ambasciatore del Vietnam, insomma, davvero se non volete, ha fatto. Su questo abbiamo approfondito talmente tanto che io vi posso ripetere tutto, ma non so se è interessante per questa trasmissione. Certamente errori ne sono stati fatti. Io credo errori molto più gravi di questi, che io li considero errori banali confusione amministrativa, ma e li archivierei in questo campo. Orrori molto più importanti questa amministrazione, io sono la prima a riconoscerla e anche il sindaco li riconosce. Esatto, non credo che lei possa avere una percezione della città con i cittadini di fronte all'ATA, che trasporto pubblico eccetera eccetera, come se questa giunta sia stata agli occhi della città una grande risolutrice di problemi ereditati gravissimi. Ha fatto due cose importantissime, queste vanno riconosciute. Uno, ha rimesso i conti a posto, perché anche le agenzie di rating lo hanno riconosciuto e il bilancio da negativo viene considerato stabile, e questa è una cosa che va considerata in maniera molto importante, soprattutto da osservatori come voi. La seconda cosa, ha messo un freno al dilagare del malaffare che regnava dentro le stanze del Campidoglio, oltre che in gran parte della città, ma dentro le stanze del Campidoglio il malaffare è bloccato. Quindi io capisco l'ATA che è un problema, ma secondo voi adesso, sinceramente, pensate che domani arriva un commissario? No, ma sicuramente seguo la vicenda societaria dell'ATA che è da decenni. Ci ha detto detto, ci ha detto, l'assessore Sabella a questi microfoni che Roma è ingovernabile. Esatto. Sue testuali parole. Quindi Esposito, l'ex assessore ci ha aggiunto che considera conniventi gran parte dei dirigenti e dei funzionari che ha trovato su di lui. Quindi, figuriamoci. Però, assessore, mettiamo uno scenario: Marino ritira le dimissioni, lo facciamo, lo diciamo noi. Si va in consiglio, i 19 consiglieri del PD lo sfiduciano, però ne servono 25. Cioè, come va avanti? Non pensate alla città, ai romani che vedono questa situazione e dicono: ma è tutto paralizzato da questo teatrino politico, diciamo. Ma in realtà la città sinceramente non è paralizzata, perché, come dicevamo appunto, la giunta ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi gli atti sono andati avanti e non c'è una paralisi. C'è un problema grosso nei trasporti, ma quello indipendentemente, e non possiamo più andare avanti a trascurarlo neanche un giorno dal mio punto di vista. Però in questo caso anche l'assessore ai trasporti penso che dovrebbe mettersi con una mano sulla coscienza e occuparsene veramente. No, lui dice partita chiusa. Dopodiché è chiaro che io sinceramente non nutro speranze che si possa andare avanti in questa situazione di grave sfiducia. Ma quindi traduco, comunali, una schermaglia tattica per lasciare il cerino in mano a qualcuno, al PD o al sindaco? I consiglieri comunali sono liberi di dimettersi e di sfiduciare il sindaco, lo devono dire, lo devono spiegare al sindaco e va benissimo, ma ai cittadini. Io lo sottolineo ancora una volta, guardate, noi l'avete visto, la piazza sarà stata mezza piena, mezza vuota, ma 3.000 persone che si autoconvocano, perché senza un partito dietro, si riuniscono, si mobilitano sulla rete, scendono in piazza a chiedere a un politico, nel 2015 chiedono a un politico non di andartene, perché noi siamo tutti scesi in piazza a chiedere ai politici di andarsene, ma chiedere a un politico di rimanere. No, mi sembra ma di capire. 3.000, no, ma dovremmo dargli qualche risposta. Vabbè, ma sono 3.000, però, assessore, per concludere... Sono 3.000 quelli che si sono mobilitati. Sì, sì, mi sembra che sia... Che sono 665.000 che l'hanno votato. Certo, però per concludere, lei ha detto è difficile rimanere in queste condizioni. Mi sembra che sia una situazione di finire con onore. Ecco, è tutta una questione di finire con onore e con dignità. Questo mi sembra il punto, no? E riconoscere quanto è stato fatto e possibilmente dare una continuità a tutte le cose positive. Va bene. Allora, intanto buona giunta. Mandiamo questa pillola a Renzi che ci pensi. Perché qui la questione, grazie Alessandra Cattoi, assessore a Roma. Mi sembra, Oscar, che veramente una telefonata di Renzi può risolvere tutto. Ecco. Torniamo sempre in questa cosa. Magari, però, no, non lo so. Forse eviterebbe a Roma. Innanzitutto un autosventramento ulteriore del suo partito di fronte alla città. Perché questo. Eppure sono strategie. Se non lo fa, evidentemente ha in mente qualcosa, no? Se non lo fa, ha in mente qualcosa. Sì, Renzi. Io non so quanto davvero abbia tutti gli elementi del suo partito a Roma, Renzi, con tutto quello. Questo non sappiamo. Sappiamo che Marino ormai identifica in Orfini il traditore, questo dice il Corriere della Sera, e Orfini di lui dice: ma è una vergogna indicibile. Quindi questo e però si raccolgono i giornali voci di parti del PD romano che non dovrebbe essere ostile a Renzi, che parlano per primi loro malissimo di Orfini, quindi oramai è una cosa... È una guerra per bande. È una guerra per bande. Non so, Flavio da Roma ci ha chiamato, mi risulta per un altro argomento, però essendo da Roma. Flavio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. No, io in realtà volevo esprimere la solidarietà nei confronti dell'assessore. Ha detto una cosa sacrosanta. Cioè? Sacrosanta. Esiste il testo unico degli enti locali e se un sindaco viene sfiduciato deve essere sfiduciato dal proprio consiglio. Ma è lui però che si è dimesso, che risponde ai cittadini. Le dimissioni in questo caso possono essere anche interpretate come un atto amministrativo. Mi dimetto, mi presento in consiglio, un po' come la sfiducia al governo. Il governo si presenta in Parlamento, il Parlamento vota se la fiducia gliela dà, il governo continua, eccetera. Qua in realtà la considerazione che avete fatto è di paralisi eventuale del Consiglio, non tanto della Giunta, perché da quello che ho capito la Giunta l'appoggia, Marina. Il problema è... No, la Giunta l'appoggia, la Giunta va avanti con assessori fondamentali però che non partecipano. Aspetti un secondo, perché sennò qua sembra che adesso Roma ha un sindaco operativo, nessun problema, una giunta operativa, non è così. Poi ovviamente non ci mettevamo a interrompere la Cattoi, diamo per scontato che voi a casa sappiate che quattro assessori, il vice sindaco, non ci mettono contropiede nella giunta, esatto. Cioè l'assessore causi, ai trasporti Esposito dice non partecipa più alla giunta, cioè considerano questa giunta morta. Però Flavio, non so, la ringraziamo. Patrizio da Salerno. Patrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io volevo solo riportare una notizia di un giornale salernitano. Voi sapete benissimo lo scandalo che è successo a Salerno per quanto riguarda i furbetti che filmavano e se ne andavano, poi timbravano e se ne andavano a mare o a fare i cacchi loro. Sì. Bene, un quotidiano salernitano ha fatto un'indagine e ha constatato che l'amministrazione sanitaria 8 casi su 10 punisce coloro i quali sono assenteisti con un richiamo. Sì. Che questo è il modo di combattere il Ma adesso Patrizio, c'è il grande De Luca alla testa della regione Campania della sanità. Lo invitiamo, immagino che a questo punto, no? Lo invitiamo De Luca, lo ma invitiamo. No, ma per carità, De Luca quando da grandi vuole. Soddisfazioni dialettiche. Oh, ricordatevi, l'unico a Roma che per il momento ha decretato lo stop alle assunzioni è il Papa, che ha decretato lo stop alle assunzioni. Anch'io l'ho letto, ho detto stop nel turnover, ho detto ecco l'ennesimo litigio sindacale. In questo paese che si fa dare i soldi per gli immigrati e non ha neanche la vergogna di non dire in pubblico che li utilizzerà per altro. Ma dai Alessandro, su. Cioè ce l'hai con questa storia dei della manovra legata ai migranti? Ma no, io benissimo, allora accogliamoli, costano, però non è che ce li facciamo dare per utilizzarli poi per tagliare in deficit le imprese. Ma su, e lo dico malgrado che questo sia un taglio all'IRES alle imprese. Questa è la radio di Confindustria, però è sbagliato, non ci si comporta così. È sbagliato il principio. Allora, caro Oscar, ci dobbiamo fermare qui con Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione, anche Elisabetta Fusconi, anche grazie se in ferie, a tutti loro. Anche se in ferie, meritate, poverina. Sì, meritate. Noi ci ritroviamo domani. Non ci hai detto il santo oggi. Ah no, oggi era San Giuda Taddeo, che tutti confondono con il Giuda Iscariota. Ah, non è Iscariota. Questo era cugino di Gesù. E povera, con questo nome che si ritrova, nessuno se lo ricorda, perché dice traditore, ma no, è l'altro. No, Giuda Taddeo. È come Marino, Giuda Taddeo. No, dice no. Sempre che la colpa è dell'altro. E Giuda Iscariota chi è? No, Giuda Iscariota è quello dei 30 denari. No, sì, ma in questo caso. In questo caso ognuno dice che è l'altro, però è nel PD. Marino nasce come foglia di fico per coprire il problema. Bettini, ecco un altro che dovremmo invitare. Bettini. Vabbè, segniamo tutto. A domani! Elezioni per il Comune di Roma. Votate per il Partito della Zappa. Candidato sindaco l'immarcescibile Alessandro Milan. All'inquisizione e fustigazione Oscar Giannino. Il risultato è garantito.